Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati, nuovo appuntamento con il mondo della scuola, in studio Mirko Cavallini, regia Eddie Daici. Prima della pausa natalizia, come sempre di due settimane, abbiamo ancora questo e il prossimo spazio per parlare di temi della scuola. Oggi ospitiamo l'Associazione Italiana Maestri Cattolici che all'inizio del nuovo anno, quindi fra poche settimane, dal 3 al 5 gennaio a Roma, avranno il loro 20° congresso. Bentrovato al già presidente provinciale di Treviso dell'AIMC, Adriano Dotto. Grazie. E bentrovata alla nuova che ha preso il suo posto, sta prendendo il suo posto, Stefania De Lesto, benvenuta. Grazie. Dunque Adriano, un tema, quello di questo congresso, che può dire molto, abbiamo solo una ventina di minuti, ma insomma cerchiamo di farceli bastare. Sì. Salviamo la scuola, l'impegno di tutti per il futuro del paese, sembra il programma di un governo. Hai detto bene, direi che al nostro Veneto e al nostro paese, perché così si conclude la frase dell'intitolazione del congresso, sia proprio un riportare alle origini dell'AIMIC, perché noi partiamo dal 1946 come AIMIC, Salviamo il Fanciullo. È il primo congresso, 1946, quindi dopo la guerra. Subito dopo la guerra, chiaramente un'esigenza sociale, direi, per dire alla gente, bene, questo è il nostro obiettivo, salviamo il bambino, salviamo il fanciullo. Allora, si chiamava fanciullo, così, certo. Benissimo. Oggi come oggi è chiaramente una condivisione con l'epoca, perché evidentemente ci sono dei paralleli che poi evidentemente vedremo magari in sede di discussione. Con che cosa? Ecco, qui è l'impegno di tutti, come c'era allora, e per la costruzione del paese. Ed è vero? Direi di sì. Direi è una autodomanda, ma di risposta talmente valida da dire sì, necessita salvare la scuola, perché si trova in una situazione particolare. Dobbiamo impegnarci per il futuro con l'impegno di tutti, quindi famiglia, scuola, istituzioni, dicendo perché? Perché il nostro paese merita di più e quindi noi dobbiamo crescere come società sociale, ecclesiale, in questo caso siamo a livello di radio, diciamo così, ecclesiale, ma diciamo è necessita proprio anche questo. Direi che gli ambiti in cui ci richiede questo impegno, ecco, sono proprio questi di una condivisione. Io adopererei questa parola, condivisione, collaborazione per la crescita del nostro paese, delle nostre famiglie, della nostra società civile. Ecco Stefania, che da quanto tempo insegna? E ormai andiamo ha perso il conto? No, ho perso il conto, però credo ormai sia il 38° anno di servizio, quindi dovrei essere verso una zona di quasi pensione. Quasi, diciamo quasi. Mi sta prendendo perché io sono al 41°. Ma tu sei più avanti. tanti anni all'interno della scuola, servizio soprattutto dei ragazzi. Perché all'interno di questa associazione? Perché l'associazione risponde comunque a dei bisogni, a delle sollecitazioni che vengono dalla scuola. La scuola ha bisogno non solo delle associazioni o del contesto in cui opera, ha bisogno anche di avere degli obiettivi chiari. Noi ci troviamo attualmente ad avere delle difficoltà nelle relazioni con il contesto, con i genitori, con l'ambiente esterno. La scuola ha bisogno di fare gruppo, di fare team, di essere fusa nelle sue iniziative, perché l'obiettivo prioritario è il ragazzo. Allora, come AIMC, cosa dobbiamo fare, cosa ci proponiamo? Proporre un po' di ritorno a quello che è il lavoro nei confronti dei ragazzi, riprendere un po' i temi molto cari, e qui faccio riferimento a Domilani, i temi cari del docente, dell'insegnante che lavora in funzione del ragazzo. Certo. In questi ultimi anni la scuola forse ha perso di vista quello che è l'obiettivo prioritario. riuscire a parlare, a rimanere con i ragazzi, a fare scuola, e nel fare scuola riuscire anche ad inserire nei nuovi contesti, penso alle nuove indicazioni, certo, penso a tutto il lavoro, ecco, le nuove indicazioni parlano di persona e quindi là è chiaro il messaggio che viene dato alla scuola. All'interno di tante proposte che attualmente coinvolgono i docenti nella formazione, nei lavori, noi dobbiamo forse fermarci per riprendere in mano quello che è l'aspetto, ricordo Don Milani, sì. Quando Don Milani parlava di ascoltare i ragazzi, le ricordiamo, rileggiamo magari lettera a una professoressa, perché molti temi possono ancora farci riflettere. Scuola e farci riflettere. Certo. Quindi la scuola è un luogo di incontro, di relazioni, soprattutto di ascolto da parte dei docenti nei confronti dei ragazzi e nei confronti anche dei genitori, perché i genitori attualmente vivono una situazione molto complessa, nella quale non riescono più a trovare quali erano i veri punti di riferimento. Il docente che dava delle indicazioni, certo, ricordi Adriano? Certo. E soprattutto la difficoltà del contesto esterno, la società, la scuola, la famiglia che attualmente vive una serie di strutture diversificate, diverse da, certamente, dalla famiglia tradizionale. Sì. Però la scuola deve farsi carico anche di questi ragazzi quando arrivano. Sono ragazzi che comunque hanno dei bisogni. Certo. E allora dovremmo riprendere da questo punto. Con l'AIM ci diciamo, riprendiamoci un po' questo aspetto di ascoltare i ragazzi e di metterci nell'ottica di vedere. Allora, facciamo già una breve pausa e poi torniamo, ripartiamo proprio da questo punto. Se bisogna tornare ai ragazzi, fino ad ora di cosa ci siamo occupati? Tra poco. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Come stai? Come sto? Maledettamente bene. Penso a te, penso a noi e non vivo più. Forse sei abile a nascondere il dolore. Forse no, non lo so, ma ti aspetterò. Guardami, sono qui tra l'inferno e il paradiso. Non so più che anno è, cerco solo te. Tutto sa di follia, ma è solo malinconia. Vedo la realtà e vorrei che fosse una bugia. L'alba brucerà le porte della tua prigione. In nome dell'amore fai la cosa giusta, sì, la cosa giusta, anche se fa male. Un giorno, un'ora, vorrei vederti ancora. Un raggio di sole in nome dell'amore. Dove sei? Cosa fai? Hai paura di sbagliare? Io non so che cos'è che mi lega a te. Sarà un Dio che non ho, un peccato da pagare. La realtà è che non lo so, ma stai scappando via. In nome dell'amore io combatterò, ti salverò anche a costo di morire. In nome dell'amore voglio dirti che ti amo. Un giorno, dal mondo della scuola. Programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme questa puntata dal mondo della scuola dedicata ai maestri cattolici, quindi la scuola primaria, si dice così adesso, certo, Adriano? Si dice così, la scuola elementare. Sono abituato alla vecchia dicitura. Con Adriano Dotto e Stefania Delesto stiamo anticipando alcuni contenuti del 20° congresso nazionale in programma all'inizio di gennaio a Roma. Diceva prima la maestra Stefania, viene chiamata così? Sì, maestra Stefania, certamente, che bisogna ricentrare l'attenzione sul ragazzo, la scuola lo deve fare, voi come maestri cattolici in particolare. La domanda è: ma se si sente adesso questa necessità, fino a prima dove è stata diretta l'attenzione, l'energia, il lavoro di tutti? Vado io, Stefania, dicendo questo, che è giusto, giusta la considerazione, per il fatto che la scuola ha assunto tanto di, tra virgolette, burocratese, e molto si fa a livello di istituzione, molto, per carità, si fa molto, però ecco, l'attenzione del bambino, come diceva prima Stefania, è venuta meno rispetto a quello, ma non per colpa certamente degli insegnanti, ma probabilmente per colpa di un, tra virgolette, modus vivendi della nostra scuola italiana, che ha ripreso sotto gli aspetti, diciamo così, politici, sindacali, dicendo, una realtà che poi in fin dei conti è rimasta molto isolata dal contesto sociale, perché facciamo i conti con la scuola, non è che sia un ambiente riconosciuto di contrattazione, diciamo così, governativa per... E lì invece c'è la necessità di, lì nella scuola, c'è la necessità di operare con chi? Col soggetto, come diceva prima la maestra Stefania, col soggetto logico, cioè il bambino. Il ragazzo, il bambino, chiamalo come vuoi, chiamiamolo anche adolescente, se vogliamo. Certo. Ma è lui l'utente. E l'utenza, ecco che mi introduco magari con un certo discorso che faceva prima Stefania, è proprio le relazioni che la scuola deve, ed è obbligata, è doveroso che sia fatta dalla scuola, la relazione con il sociale, soprattutto con la famiglia, con il bambino prima di tutto, con la famiglia e con il sociale. Noi dobbiamo rispondere a queste esigenze, che sono le esigenze d'oggi, laddove abbiamo una società piuttosto, tra virgolette, disturbata da tante interferenze, come lo è il bambino, che non è il bambino, il fanciullo a cui accennavo all'inizio, del 46. È un ragazzo che a 6 anni arriva a scuola con delle interferenze da gestire a scuola. Quindi queste interferenze, più la famiglia, più il discorso sociale. Qui c'è la relazione che la scuola, sulla quale la scuola deve scommettere, vero Stefania? Mi sembra che sia l'attenzione, sì, ai ragazzi in particolare. Io vengo adesso da un convegno che sono stata a Rimini, esatto, sulla qualità dell'integrazione scolastica. Ecco, uno degli aspetti fondamentali, abbiamo sempre cercato di dare precedenza ai ragazzi con particolari difficoltà o i ragazzi che hanno anche delle disabilità, possiamo dire, no? Le difficoltà, quindi l'attenzione ai ragazzi, specialmente ai ragazzi con dei bisogni particolari di apprendimento, la scuola su questo si sta muovendo, io direi soprattutto i gruppi di insegnanti più sensibili lavorano da anni su questi aspetti e stanno cercando soprattutto di trovare quelle modalità di apprendimento o di relazione che possono agevolare i ragazzi con queste difficoltà. Noi cosa possiamo fare? L'impegno dell'AIM, cioè l'impegno alla persona e alla persona anche con le sue difficoltà. Osservare soprattutto che i docenti hanno bisogno e richiedono costantemente formazione, E in questo caso anche su questo possiamo dare delle risposte, come facciamo con dei corsi che abbiamo organizzato, corsi che magari rispondono alle richieste proprio dei nostri associati. Ecco, è un impegno che come maestri cattolici ci prendiamo, proprio quello di essere accanto alla scuola, chiaramente ai docenti, per la formazione. Formazione che, come diceva Stefania, è in divenire, perché per esempio sul discorso dei disturbi specifici di apprendimento, sui bisogni educativi speciali, dicendo, siamo in evoluzione. Non è che sia, ricordo io dal 74 quando feci la prima, diciamo così, il mio primo impegno in Regione Veneto è stato proprio quello di anticipare quello che usciva e sarebbe uscito nel 77. Quindi questo impegno rimane tale, e rimane tale anche per diciamo così dare soddisfazione ai, e poi chiaramente soddisfazione, soddisfare le esigenze delle famiglie, e poi per, tu accennavi anche al discorso dell'integrazione, non è da poco, no. Ecco, posso dire che Stefania è anche responsabile del diciamo della rete di Castelfranco Veneto, io stesso ho partecipato alla rete di Treviso fino all'altro giorno, poi pensavo di andare in pensione, non bisogna mai pensare a queste cose, ecco, per quanto riguarda l'integrazione, sì, l'intercultura, chiaramente anche qui, fondamentali, esatto, vero, sono due momenti, sì, fondamentali. Prova un attimino tu a approfondire un attimino con la tua esperienza. Lo facciamo dopo questa pausa, visto che abbiamo il tempo che corre, lo facciamo subito dopo. Dal mondo della scuola. It's just one more day. No one said there would be rain again. Won't blame it on myself. Yeah, I'll blame it on the weatherman. Get away. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, parliamo di maestri cattolici. Poco fa Adriano Dotto introduceva il tema della formazione anche in chiave integrazione scolastica. Certo. Stefania, un'esperienza da raccontare. Coordino una rete di integrazione degli alunni stranieri ormai da 10 anni a Castelfranco sul territorio, e questo territorio di Castelfranco è stato interessa in particolare circa 12 istituti comprensivi. Attualmente gli istituti sono 7 perché c'è stato un accorpamento, e da anni noi lavoriamo attraverso con la cooperativa Una Casa per l'Uomo per la mediazione, e lavoriamo in tutte le scuole degli istituti comprensivi afferenti alla rete stranieri, che si chiama Identità Plurime, quindi anche il titolo ha una sua connotazione caratteristica, una sua funzione. Questa Identità Plurime noi parliamo e portiamo all'interno delle scuole, dei docenti, attività di formazione, materiali. Diamo la possibilità di far intervenire i mediatori culturali che afferiscono alla cooperativa Una Casa per l'Uomo, per incontri con i genitori, quindi tutta una serie di attività e di azioni che ormai da anni sono diventate, all'inizio era una situazione di emergenza da risolvere, parlo del 2000 quando noi siamo partiti, era una situazione di emergenza e dovevamo dare delle risposte agli insegnanti che si trovavano questi ragazzini praticamente inseriti in classe. Adesso, con l'elaborazione del protocollo di accoglienza, con l'elaborazione dei materiali, con l'elaborazione anche di un sito, perché la rete Identità Plurime ha un sito a cui afferiscono tutti gli insegnanti perché possono scaricare i materiali. Noi cerchiamo di dare delle risposte ai bisogni proprio dei docenti, ai bisogni anche di questi ragazzi, che in effetti sono dei ragazzi che si trovano a volte in situazioni molto particolari. Ecco. Sì, ma io aggiungo un discorso, che in questi termini anche la nostra chiesa locale, Veneta proprio, e Trevigiano in particolare per quanto di nostra conoscenza, ma Veneta proprio, si aggiunge a questi interventi, coadiuva praticamente lo sforzo educativo, perché evidentemente ci sono dei bisogni, come diceva appunto Stefania, e i bisogni sono quelli appunto di soddisfare esigenze non soltanto linguistiche, ma proprio di inserimento sociale di queste famiglie, parlo di famiglia, non soltanto del bambino. Ecco. Al di là di questo, ecco, vorrei continuare il discorso e terminarlo quasi, perché ormai siamo verso la fine del nostro dire, per quanto riguarda il nostro ruolo come AIMIC all'interno della Chiesa, Chiesa Veneta, anzi direi Triveneta in questo caso, perché a questo punto stiamo lavorando, e nazionale chiaramente, ma stiamo lavorando sodo, direi, da anni. Voglio citare Don Edmondo Lanciarotta, coordinatore nostro del Triveneto, e con il quale da diversi anni stiamo lavorando appunto sulle tematiche più importanti che riguardano l'educazione in tutte le sue sfaccettature, quindi con la famiglia, all'interno del mondo della scuola, tra docenti e dicendo, no? E poi anche nel sociale, come dicevamo prima, perché la scuola si rapporti con il sociale in maniera corretta, anzi noi abbiamo bisogno del sociale perché il sociale capisca qual è il ruolo della scuola, ma non soltanto la scuola diciamo nostra cattolica, la scuola tutta, perché evidentemente lì c'è il bambino di tutti, lì c'è il cittadino di tutti, lì c'è diciamo l'essenza del nostro stare insieme nella società. Quindi un rapporto costruttivo all'interno della Chiesa, attraverso queste esperienze di pastorale scolastica, ripeto, triveneta in particolare, che ci portano a confrontarci su tematiche variegate, e penso che sia necessario sottolineare questo, perché le comunità, e questo è un appello, le comunità ecclesiali, le parrocchie, le chiamiamo così ancora, le parrocchie, si interessino di questo tema, la scuola e l'educazione. Ogni parrocchia ed ogni scuola ed ogni, chiedo scusa, ed ogni parrocchia e ogni realtà ecclesiale dovrebbe interessarsi della scuola, la scuola del territorio e dei bambini che ci stanno dentro. Quindi io direi proprio di dare impegno ai sacerdoti e ai laici di creare degli spazi per far sì che il mondo della scuola sia veramente compreso e sia veramente, diciamo così, portato a riflessione, perché necessita farlo maturare nelle relazioni, ripeto, bambini, genitori, insegnanti. Voi spenderete alcuni giorni delle vacanze natalizie, appunto, certo, dal 3 al 5, poi rientrare subito, sì, il 7 al lavoro. Una sua aspettativa, Stefania, da questo incontro romano? Io mi auguro che da questo convegno escano delle proposte valide di lavoro all'interno delle varie sezioni. Coordino la sezione di Castelfranco come associazione e so quali sono i bisogni degli insegnanti, me lo chiedono. Al di là dell'essere associazione AIMC c'è anche un discorso più ampio, che è la scuola laica, cioè tutta la scuola, quindi tutti i ragazzi che comunque hanno dei bisogni, e noi dovremmo, questa è la mia ipotesi, lavorare in costruzione tutti insieme, laici e anche le associazioni, perché comunque i ragazzi sono il nostro obiettivo, e io direi soprattutto tutti i ragazzi sono il nostro obiettivo. E il terzo punto, appunto, del nostro titolo del congresso è proprio il futuro. Esatto. Ecco, io direi proprio, ragionerei proprio in quest'ottica, ragionerei nell'ottica di far sì che le nostre associazioni cattoliche, ma non cattoliche, perché già un'esperienza c'è, e lo dico così apertamente, un'esperienza molto aperta, tutte le associazioni professionali, per esempio, quindi anche non cattoliche, certo, chiaramente, per far sì che la scuola abbia l'unico obiettivo, farla crescere insieme, e insieme cresciamo, come si dice, all'interno di che cosa? Di un contesto sociale, ripeto quello che dicevo prima, dove la scuola è la Cenerentola, tra virgolette, no? E non dovrebbe essere la Cenerentola, perché il futuro è nei nostri giovani, è nei nostri ragazzi, i nostri figli, e quindi necessita proprio per questo, interessarsi, per esempio, collaborando tra varie associazioni, con insegnanti, con i genitori e con il sociale. Grazie Adriano Dotto, grazie Stefania Delesto dell'AIMC, Associazione Italiana Maestri Cattolici, a fin d'ora anche a voi, buon Natale. Grazie. Grazie mille, a voi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.